Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Big World, e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono sempre Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia, e sono qui per parlarvi di un altro monologo che forse vi farà rendere conto che il teatro non è così lontano dalla vostra vita quotidiana, o almeno non come credete. Siamo alla quarta puntata, è arrivato ormai novembre e io ho detto che avrei seguito la scansione del calendario. In realtà in questo caso ho cambiato un po' le regole perché non trovavo una celebrazione o una ricorrenza in questo periodo che si prestasse ad essere trattata in questo programma, però dato che il programma è mio e c'è una data importante per me, ho deciso di parlare di quella. Ebbene, oggi, 8 novembre, è il compleanno di mia nonna. Dato che il 2 ottobre, il giorno della festa dei nonni, non era ancora iniziato il programma, ho deciso che posso permettermi di parlare dei nonni, e in particolare della mia nonna, in questa occasione che per me è importante, anche se a voi probabilmente non frega niente del compleanno di mia nonna. Ma nella mia famiglia è un'occasione molto importante e il ristorante per il festeggiamento va prenotato almeno 3 mesi prima. Per l'occasione ho deciso di parlare della vecchiaia. E no, non credo che mia nonna si offenderà perché compie 85 anni, quindi non si considera esattamente giovane. Per parlarvene ho scelto un testo che mi piace molto e che mi sembra molto profondo, tratto dalle Beatrici di Stefano Benni. È un pezzo del monologo Vecchiaccia, che vi consiglio di recuperare e leggere tutto, perché è un po' lungo e sarebbe stato decisamente troppo lungo per portarvelo tutto in questa trasmissione, però veramente merita. Io ne ho scelto un pezzettino e ora vi invito ad ascoltarlo. Perdonatemi se non sono riuscita a fare la voce da vecchia, però piuttosto di suonare stereotipata, ho deciso di farlo con la mia voce naturale e spero che comunque le emozioni vi trasmettano quello che il personaggio voleva dire. E forse non sapete com'è quando ti accorgi che non esisti più. Esisti solo per lo spazio che occupi e le 3 medicine che prendi e il cesso che sporchi e le lenzuola che bagni, perché morire non va bene. Non si uccidono le vecchiacce, si uccide Vincenzo e i bambini e mia sorella al buio, ma costruiamo tanti posti per far vivere centinaia di vecchiacce che qualcuno paga, anche se lo sai che a nessuno frega niente di una vecchiaccia. E allora, signori miei, cosa fanno le vecchiacce? Urlano! Ah! Si urla. Urliamo. Così per un attimo il mondo si accorge di te e delega un infermiere incazzato, un poveraccio con un futuro da vecchiaccio. Delega a lui a rappresentare l'umanità generosa e tu non sei davvero viva, sei un sasso nell'acqua che va giù e fa i cerchi sempre meno visibili e l'acqua si richiude e il mondo ti cancella. Dimmi, schifosa, vorresti essere come i vecchiacci più cattivi? Quelli che si mettono i capelli finti in testa e la cipria sulle rughe, si vergognano di essere vecchiacci e uccidono, urlano, sputano, prendono il potere, perché se hai il potere esisti ancora un po'. Se sei un vecchiaccio uomo, ma anche le vecchiacce ci provano, li imitano, ma una come me non ce l'ha fatta a diventare una di loro, un'assassina. E adesso è tardi, magari potrei ancora... Una volta ho rubato un coltello, ho pensato, se taglio la gola alla Lina, a 96 anni, quel vegetale là, rincoglionita, a bocca aperta, che sta a testa in alto a ingoiare aria. Oppure taglio i coglioni al medico ciccione, allora esisterò, sì, si chiederanno perché. Ma non è vita neanche quella. La vita degli assassini è poca vita. La protagonista del monologo, come avrete capito, è una vecchia signora che sta in una casa di riposo ed è stata mandata in questa casa di riposo contro la sua volontà, come si capisce dalla parte finale del monologo. È stata sua figlia a mandarcela, convincendola che sarebbe stata bene e sarebbe stato il luogo giusto per lei, ma la signora si è rassegnata a questa decisione pur non condividendola. Questa donna nel monologo non ha nemmeno un nome, viene chiamata semplicemente la vecchiaccia, e lei parla di sé in prima persona, non rivelando mai qual è il suo vero nome. Quasi come se il fatto di essere vecchia, aver superato una certa età, non facesse più di lei una persona, non contasse più quello che lei ha fatto durante la sua vita, ma è diventata semplicemente troppo vecchia e inutile per essere considerata. In effetti, per quanto possiamo evitare di ammetterlo, una parte della connotazione del termine vecchio è legata a questo senso di inutilità. Nessuno di noi vuole invecchiare, ne abbiamo tutti paura, sia perché ci avviciniamo alla morte, ma soprattutto perché invecchiando diventiamo più stanchi, pieni di acciacchi, la memoria fa un po' cilecca, ma soprattutto diventiamo meno utili. Possiamo fare meno cose, ci dobbiamo far aiutare e quindi finiamo per considerarci un peso per gli altri. La vecchiaccia del monologo si rende conto di essere diventata soltanto un peso per sua figlia, che l'ha costretta ad andare nella casa di riposo, per gli infermieri che fanno il loro lavoro ma comunque non mostrano un reale interesse per i vecchi, per gli altri ospiti della casa di riposo che lei definisce dei vegetali. È un po' come se fosse già morta pur essendo ancora viva, perché non si uccidono le vecchie, è immorale, non lo si può fare. Però le si rinchiude in queste strutture e le si considera inutili. Quindi di fatto non è realmente una vita. Lei vive questa situazione con rabbia, si sente inutile, invisibile, non considerata, e purtroppo non credo che sia l'unica persona anziana a cui capita di sentirsi così. E come faccio io, che ho 25 anni, ad immedesimarmi in un personaggio che ne avrà, non lo so, 80, 85, 90, addirittura più di 90, 100? Qualche anno fa un regista con cui ho preparato uno spettacolo mi ha detto che secondo lui un giovane non può immedesimarsi in un vecchio, perché è una cosa troppo diversa, l'esperienza bisogna averla vissuta. Io al momento non ero convinta. Ora non lo so, credo che sia comunque difficile immedesimarsi, però credo che in una qualche misura lo si possa fare. Non so se sia effettivamente vero. Ve lo potrò dire quando avrò vissuto qualche altro decennio, quando avrò 60-70 anni. Ora non ho così tanti anni alle spalle da potervelo dire. Però la sensazione di essere inutile, lasciata indietro, ignorata, di non esistere più, comunque credo che la si possa provare a tutte le età, magari per un motivo diverso, però ci si può rendere conto di come si sente una persona considerata troppo vecchia. E poi, anche non essendo vecchi in senso assoluto, magari ci si può sentire troppo vecchi per fare qualche cosa. Ad esempio, per un lavoro, per iniziare un nuovo percorso di studi, oppure per intraprendere una relazione. Capita di pensare che forse il proprio tempo sia ormai passato che non ci sia più la possibilità di recuperare il tempo che abbiamo perso. Dall'altra parte, però, per fortuna, a parte la sensazione di inutilità della vecchiaccia, ci sono delle cose più positive, come i ricordi che si porta dietro. Essendo vecchia, ha un sacco di esperienza, ha vissuto la guerra, racconta di quando sua sorella è stata uccisa dai fascisti, racconta di quando ha partorito sua figlia, racconta della sua prima storia d'amore. Ci sono tantissimi ricordi nella mente della vecchiaccia e questi ricordi è brutto che vadano persi. Sarebbe bello che avesse dei nipoti a cui raccontarli o anche soltanto una persona che non sia suo parente ma che sia interessata a sentirli. Mi pare che troppo spesso ci concentriamo sulla parte negativa della vecchiaia. Ma invece c'è anche la parte positiva di aver vissuto così tanto passato, l'esperienza, la memoria. E il passato comunque serve per rendere migliore il presente, altrimenti perché studieremmo la scuola? Quindi essere vecchi e ricordare non è poi così inutile. Ma i giovani se ne devono rendere conto perché i vecchi, se lasciati da soli, è naturale che si sentano inutili. Per fortuna che mia nonna non è da sola. Ha 4 figli, 2 nuore, 1 genero, 11 nipoti e 2 pronipoti che le fanno compagnia. Ah, senza contare fidanzate e fidanzati dei nipoti, quindi dobbiamo prenotare praticamente un ristorante intero. Spero che anche i vostri nonni, genitori e persone anziane che conoscete siano in compagnia, magari non così numerosa, però buona compagnia. E spero anche che questa puntata vi sia piaciuta. Se avete voglia di sentirmi di nuovo, potete ascoltarmi la settimana prossima, sempre alle 20:30, qui su Radio Big World.